9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, Oscar Giannino torna ad augurarvi un buon giovedì 3 dicembre e tenta di introdurvi con qualche breve numeretto alla questione di cui ci occupiamo oggi. Alcuni scrivono tra l'altro: ma perché Giannino tu non ti occupi mai dei veri temi che sono dominanti sui giornali? E insomma, Berlusconi! Ma insomma, io, come avrete capito, ve lo dico all'inizio, non è che sia completamente svanito di testa, lo faccio un po' apposta a tenermi lontano da quello che apre ogni giorno da settimane, mesi, anni, 15 anni i giornali italiani. Lo faccio un po' apposta perché temo che la realtà del nostro paese si debba occupare anche di problemi concreti, oltre che quello, e io lo rispetto, che legittimamente alla maggioranza dei miei colleghi e a moltissimi italiani, a furia di leggere e ascoltare, sembra il tema più importante, anzi forse l'unico, anzi forse più che l'unico, il prioritario di cui occuparsi. Io dico che ha tutta l'importanza che volete, lo trovate sviscerato dovunque, a qualunque ora del giorno e della notte. Io tento di riflettere su qualche altra questione concreta, su qualche numero, sull'economia, su quello che non funziona. Ecco, chiusa parentesi, ma devo questa risposta, non è uno sfogo, a tantissime lettere, sms, che mi dicono: ma ogni giorno un tema diverso da quello dell'apertura dei giornali e dalla cosa politica. Perdonatemi, io penso che abbia la sua importanza. Chiusa parentesi, tema di oggi qual è? Quello di tentare di capire se davvero con il 1 gennaio, con le norme che sono state approvate nei mesi scorsi e che sono in via di preattuazione, perché diventano vigenti dal 1 gennaio, si riuscirà ad avere la speranza di migliorare in qualche cosa davvero uno dei temi che ha sempre contraddistinto la struttura del modello di sviluppo dell'integrazione dei redditi del nostro paese, cioè l'eccesso di trattamenti per l'invalidità, di pensione di invalidità nel nostro paese. E quando si dice eccesso non è che si pronuncia un giudizio generale in ordine al fatto che la stragrande maggioranza, tutti o quasi tutti coloro che ne beneficiano non ne abbiano diritto, ma insomma si è indotti ad esprimere un giudizio di quel tipo dalla distribuzione e dalla geografica e dalla concentrazione sulla popolazione in alcune aree del paese di questi trattamenti di invalidità. Io ricordo che nel nostro paese su circa oltre 4 milioni di trattamenti di invalidità sono 2 milioni e 100 mila più o meno coloro che beneficiano di un trattamento esclusivo di invalidità. E in ordine appunto alla distribuzione geografica e al rapporto strutturale della popolazione, però ci sono evidenti anomalie di distribuzione, perché se la media nel sud e nelle isole è più o meno di 4,4 trattamenti di invalidità su 100 abitanti, questo rapporto al nord diventa di 2,8 e quindi c'è una discrasia molto forte. Ci sono alcune regioni in cui il tasso di questi trattamenti è molto elevato. Devo dire che non sono solo al sud, anche se nel sud il tasso è molto elevato, ce ne sono alcune anche come l'Umbria e la Liguria, dove si va in Umbria addirittura oltre il 5%, 5 su 100 abitanti, e comunque in Liguria oltre 4 su 100 abitanti. Nel sud siamo tutti su percentuali più che doppie rispetto al nord, e questo tema è stato un tema classicamente ricorrente, per esempio in tutti i libri che Gian Antonio Stella e che molti altri colleghi hanno dedicato allo scandalo dei mancati controlli della spesa pubblica italiana. È un classico tema in cui ci ho qui accumulato una pila di giornali con titoli del tipo falsi invalidi giocano in una squadra di pallanuoto, oppure lo scandalo di cui ci si occupò nel provveditorato all'istruzione qui di Milano, quando riemerge la norma collegata all'articolo alla legge 104, che è una delle tante che disciplinano l'invalidità, per le quali basta presentare una domanda di invalidità asseverata da un certificato medico e dentro 90 giorni, senza che quindi in questo certificato si asseveri o si controlli la percentuale di invalidità e la sua vera determinazione, a quel punto in 90 giorni può scattare il meccanismo, per esempio, della riassegnazione in altra località dell'insegnante. A quel punto, solo nei mesi successivi, c'è la visita di controllo, ma il trasferimento dell'insegnante per ragione di invalidità è già avvenuto, e a quel punto negli anni intanto l'insegnante se n'è andato e si vedrà come va a finire. Poi ci sono tante altre questioni di cui ci occupiamo qui, perché non intendo fare demagogia. Quindi da una parte affrontiamo anche l'argomento se sia vero, come sostengono i sindacati e non solo loro, che poi in questo paese, a fianco del fenomeno dei controlli per troppi decenni non troppo accurati su un trattamento di invalidità concepito come sistema di integrazione aggiuntivo al reddito, soprattutto nel mezzogiorno dove è più elevata la disoccupazione, sia anche vero l'argomento per il quale però anche chi si infortuna sul lavoro poi dall'altra parte fatica davvero a ottenere il riconoscimento dei trattamenti. Ci occuperemo anche di questo filone, che è collegato appunto agli incidenti sul lavoro. E più in generale la domanda che dovremmo porci è se la normativa che disciplina il complesso dell'invalidità nel nostro paese non sia troppo dispersa e se non avrebbe bisogno di un qualche accentramento. Fine del pistolotto iniziale. Quello che conta è che dal 1 gennaio, per ottenere il riconoscimento, è stato disposto che venga assegnato alle commissioni preposte un medico diretto espressione dell'INPS, perché questo è il punto. L'INPS fino a gennaio dell'anno prossimo era semplicemente il soggetto che pagava e non aveva voce in capitolo nel riconoscere se questi trattamenti di invalidità fossero legittimi, giustificati, in che grado e in che percentuali riconosciuti. Sapete che dal riconoscimento delle percentuali dipende poi la possibilità di esercitare dei diritti collegati all'agevolazione nelle graduatorie o agli orari di lavoro e così via. Ecco, questa è la cosa che cambia essenzialmente, ma non solo questa. Quindi di tutto questo parliamo innanzitutto, e io intendo ringraziarlo molto, proprio con il presidente dell'INPS, con Antonio Mastropasqua. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Allora, io ho tentato come al solito in maniera un po' impropria di mettere insieme tanti elementi del minestrone, però ripartiamo con lei da questa novità e io la prego di spiegarci se davvero poi si attua dal 1 gennaio, quanto tempo ci vorrà, se sarà un processo laborioso, in che termini l'INPS è in grado di assicurarne l'efficacia dal nord fino al sud e che cosa lei si aspetta da questo. In più, io non l'ho detto, ma è un bel periodo di tempo in cui l'INPS ha in realtà fatto anche un giro di vite sui controlli, quindi vorremmo anche sapere quali sono i risultati, che Italia esce fuori da questi controlli. Prego presidente. Allora, innanzitutto mi piace molto e la ringrazio del modo nel quale lei ha inquadrato il problema, ovvero fino ad oggi ci si è occupati del problema di invalidità per cercare il cieco che guida o qualsiasi persona che ha un'invalidità e faceva un'attività o sportiva o di qualsiasi altro genere. Voi ricorderete, l'anno scorso il governo e il Parlamento ha assegnato all'INPS il dovere di fare 200.000 verifiche straordinarie, dal quale escono dei dati ovviamente che rispecchiano un po' anche i dati dell'Italia in generale, con delle percentuali purtroppo molto alte di cosiddetti falsi invalidi, ma la preponderante percentuale invece sono di veri invalidi. Io mi sono posto un problema nel momento in cui stavamo a metà del lavoro, ovvero inseguire sempre un problema non credo che sia il dovere della pubblica amministrazione. Il dovere della pubblica amministrazione è quella di risolvere i problemi. E allora abbiamo scritto insieme poi ai ministeri vigilanti, welfare e Ministero dell'Economia, una riforma rivoluzionaria dell'invalidità civile, ovvero se da una parte c'era e ci sarà ancora anche nell'anno prossimo, avete visto sui giornali annunciate, non un giro di vite, un doveroso controllo di quello che è stato fatto, dall'altra io mi sono posto il problema che noi dovevamo dare delle risposte giuste. Le do qualche numero anche ai radioascoltatori. La media italiana di erogazione della pensione di invalidità è di un anno circa. Immaginate che molte regioni stanno intorno ai 100-150 giorni, ci sono regioni come la Sicilia che sta a più di 2 anni. Ci sono regioni, purtroppo soprattutto del sud, e dico purtroppo, dove dare la pensione di invalidità ai malati oncologici per una percentuale molto alta arriva dopo la morte del malato oncologico. Ecco, questo credo che uno Stato di diritto e uno Stato che si prende cura dei bisognosi con una spesa enorme. L'INPS spende più di 16 miliardi di euro per emissione di invalidità, non è una cifra piccola, con un incremento di circa 1 miliardo l'anno. E allora si è fatta una norma ad agosto, una norma nella finanziaria che ha rivoluzionato il sistema di invalidità civile. La domanda si fa all'INPS solo esclusivamente in via telematica. Immaginate già cosa vuol dire oggi fare le domande a tutti i posti in modo cartaceo. L'INPS in via telematica la invierà alle ASL. Le ASL dovranno fissare in via informatica l'appuntamento, nella commissione dell'ASL siederà un medico dell'INPS che è paritario con gli altri, cioè noi non vogliamo avere, no, una supremazia, però lo sfondo, il criterio che noi abbiamo voluto adottare è quello di dire: cerchiamo di dare un'uniformità del comportamento dell'Italia nei confronti di un problema che deve essere uguale, cioè l'invalido del sud è come quello del nord, quello della città è come quello del paese, e i tempi che noi abbiamo assicurato per legge, è chiaro che poi faremo di tutto, è dare ed erogare la pensione di invalidità entro 120 giorni, che è un termine civile, da paese civile, è un termine pazzesco, però insomma un po' più da paese civile, ecco, perché poi bisogna stare anche attenti che altrimenti qua chiunque ha veramente un problema serio di invalidità eccetera se lo si fa aspettare anni, no? Esatto, esatto. Quindi questo è quello su cui siamo impegnati. Abbiamo, voi sapete che fino a oggi l'INPS era solamente l'erogatore, e per una assurda diciamo buco nella normativa concorrente tra Stato e Regioni, i ritardi non imputabili all'INPS, l'INPS oggi eroga qualche centinaio di milioni di euro di interessi passivi, quindi immaginate, chiunque di noi, no, paga le cose degli altri, l'altro è sempre un po' più generoso nel farlo, tanto paga pantalone. Quindi anche su questo, tutto questo qui porterà anche a degli enormi risparmi, a una uniformità di comportamento. Presidente, ma lei come si spiega il fatto che negli ultimi anni, di anno in anno, l'aumento dell'erogato, adesso che non è il numero dei trattamenti, ma insomma delle cifre che venivano erogate, era nell'ordine del 14-15%? Lo dico perché questa cifra è una cifra che ha un andamento preoccupante negli anni. Dall'altra parte, io vorrei che chi non ha un problema di invalidità capisse anche bene le cifre di cui stiamo parlando, perché ci sono due trattamenti che sono collegati all'invalidità, no? Uno è la pensione di invalidità, che è legata a dei requisiti reddituali e a un ammontare medio, siamo sui 250, poco più euro al mese, ecco, queste sono le cifre della pensione di invalidità. Poi c'è invece, a fianco di questi, l'indennità dipende dal tipo di invalidità e non è legata al reddito, e l'importo medio dell'indennità sta sui 450 euro e così via. Quindi noi stiamo parlando in realtà di cifre che possono sembrare, e sono, rispetto al costo della vita, per chi magari deve far conto solo su di esse o quasi esclusivamente su di esse, cifre limitate. Però voi capite che quando l'ammontare di crescita è in ordine alla spesa nell'ordine 14-15% l'anno, è una cosa preoccupante. Allora la domanda al Presidente era: l'incremento che si vedeva da che cosa era derivante? Dall'incremento quantitativo o dal fatto che aumentava anche l'erogato, per così dire? E poi seconda domanda: i controlli che sono stati svolti a Campione per questa svolta in che cosa consistevano? Consistevano nel fatto che voi andavate ad accertare personalmente sul titolare del rapporto le sue condizioni, oppure era una cosa cartacea? Lo dico perché poi ci dovremmo occupare, Presidente, del che cosa davvero bisogna aspettare che cambi rispetto ai certificatori, perché qui la cupola dei certificatori, i giornali si divertivano a scrivere la cupola dei certificatori, però io vorrei che responsabilmente capissimo se il problema erano di medici delle ASL non titolari di competenze che facevano certificati, cioè, oppure se bisogna immaginare che ci sia davvero poi davvero un meccanismo di convergente solidarietà all'interno delle commissioni, per così dire. Prego, Presidente. Dunque, la prima domanda, l'incremento è dato dall'incremento dei beneficiari, quindi noi ogni anno il sistema, diciamo, ASL attribuiva nuovi, tra i 3 e i 400 mila nuovi invalidi l'anno, che quindi moltiplicati con le cifre che lei diceva poc'anzi, si vede l'incremento di spesa che era di circa un miliardo e due l'anno, tant'è che la spesa è arrivata al livello del 2009, dovremmo raggiungere e superare la quota dei 16 miliardi. Immaginate una cosa, questo è importante, 16 miliardi rispetto al fondo della sanità globale rappresenta il 13-14%, quindi stiamo parlando di un fenomeno che sui famosi 106-107 miliardi della totale spesa sanitaria italiana si somma anche un 13% di spesa per le invalidità. Dall'altra, e quindi è un fenomeno che, se, non che non si pone freno, ecco, a me non piace dire il freno, perché se c'è gente bisognosa io vorrei essere non con il freno, vorrei essere con l'acceleratore. Il problema è dare risposte certe alle vere persone che hanno l'invalidità, ecco, questo, nei tempi giusti. Dall'altra lei mi poneva il problema di che cosa è successo con le nostre verifiche. Oggi noi abbiamo fatto un elenco da una serie di incroci anche di database, abbiamo stilato queste famose 200.000 persone localizzate in tutta Italia e quant'altro. Ci siamo accorti, ed è questo uno dei motivi per i quali nella legge c'è scritto telematica, fascicolo elettronico, che le ASL la maggior parte delle volte non avevano più i fascicoli, il fascicolo cartaceo è andato disperso. Quindi abbiamo dovuto, di questo mi duole e mi dispiace, lo dico sinceramente, leggo i giornali tutti i giorni, che alcune volte abbiamo chiamato persone malati terminali, abbiamo chiamato persone che non dovevano essere chiamate, ma non è stata una cattiveria dell'INPS, ci mancherebbe altro, non abbiamo questa passione, ma perché mancano le carte, cioè non ci stanno, per la maggior parte delle volte noi abbiamo l'11% di fascicoli tornati, l'89% delle volte le ASL non ci hanno fornito il fascicolo. L'89%, lo sottolineo a chi è in ascolto, l'89%. Italia, non è nord e sud, in tutta Italia non ci sono i fascicoli, immaginate dal 1 gennaio che ci sarà il fascicolo elettronico, cioè tutto sarà vedibile al computer, dati certi, numeri certi. In questo, lo dico a dovere di informazione, è iniziata, come giusto che sia, una trattativa in conferenza Stato-Regioni, proprio oggi c'è il primo incontro a Palazzo Chigi, perché parliamo di materie concorrenti, quindi ci sono le prerogative, ci sono le competenze, i miei che andranno oggi a Palazzo Chigi hanno un input di dire cerchiamo di fare qualcosa per il bene del paese e degli invalidi e non per l'egoismo delle istituzioni che vogliono avere sempre un grado predominante rispetto agli altri. Ora io le faccio un'altra domanda, che questa volta è proprio precisamente sulle commissioni, perché come funzionano le commissioni mediche? Le commissioni mediche sono composte da 3 membri, di cui uno interno e 2 esterni, e questi componenti esterni sono scelti tra i medici legali del lavoro, e questi medici legali del lavoro devono, giustamente, per non incorrere in conflitti di interesse, che non rappresentano solo il problema al vertice della società politica italiana, per evitare che si verifichino un po' dovunque, ecco, proprio per evitare i conflitti di interesse i medici legali del lavoro delle commissioni devono non presentare ragioni di incompatibilità. Quindi tra le ragioni di incompatibilità ci sono anche particolari rapporti nei confronti dell'azienda sanitaria locale che non ponga il componente della commissione nelle condizioni di dover rivedere in sede di verifica i propri giudizi precedenti prestati per la ASL. Allora, io ho l'impressione, Presidente, che questi criteri di composizione delle commissioni dei medici siano uno dei motivi che non ha funzionato fino a questo momento. E lei mi dirà, è per questo che infatti l'IPS ci mette i suoi e diventa da ufficiale erogatore e basta titolare del diritto di esame dell'iter della pratica. Le chiedo con grande sincerità, nella sua esperienza, quale ragione spingeva a livello di massa il medico certificatore troppe volte a certificare il falso? Guarda, io registro una cosa, è un fenomeno, le do altri numeri perché so che spesso dai numeri si riescono a capire meglio i concetti. I famosi 2 milioni di 2 milioni e 100, 2 milioni e 2 di invalidi, i 300-400.000 nuovi invalidi l'anno. Immaginate che l'INPS ha oggi un, perché poi in questo assurdo sistema all'INPS è rimasta invece il dovere di difendere gli invalidi, ovvero coloro o il falso invalido. Quindi le cause per chi ritiene di essere invalido non vengono fatte alle altre, non vengono fatte a noi. Noi abbiamo 520.000 cause di persone che vogliono diventare invalidi perché le commissioni non l'hanno fatte. Quindi immaginate il volume, il costo di questo qui anche sfiora quasi il miliardo di euro l'anno di soccombenza. Quindi immaginate che fenomeno. Allora è indubbio, e non bisogna avere paura a dirlo, che si è sviluppato nel paese un sistema ramificato di una pressione sociale, io la chiamerei, nel quale medici, avvocati, una norma che è stata approvata da poche settimane in Parlamento vietano, perché questa era la regola, non era l'eccezione, che chiunque riteneva di essere invalido faceva domanda alle ASL e contemporaneamente causa all'INPS per il mancato riconoscimento. Cioè, erano contestualmente fatte. Abbiamo dovuto fare una norma che dicesse scegli una delle tue strade. Così come non era prevista la presenza della CTU nei tribunali. Mi fa piacere, è proprio un dato di questa mattina. Noi prima eravamo soccombente l'80% delle volte in giudizio contro coloro che ritengono di essere invalidi, con la CTU obbligatoria di un medico dell'INPS nell'ultimo mese siamo vittoriosi l'80%. Io la devo interrompere perché abbiamo la pubblicità. Quest'ultimo dato ricordatevelo bene perché riprenderemo di qua. Nel contenzioso, soprattutto nel pubblico impiego, mi dispiace dire che le statistiche, come sa il Presidente, sono molto rilevanti. Nel pubblico impiego quasi sempre il contenzioso dava ragione a chi opponeva rispetto al mancato riconoscimento di invalidità. Dall'altra parte però, e lo dico per tutti i messaggi giustissimi che ci stanno pervenendo, nella parte successiva della trasmissione ci occupiamo anche del mancato rispetto dei diritti degli invalidi, perché arrivano messaggi, uno solo per esempio ci scrive un ascoltatore che dice: sono un vero invalido non vedente, ho 38 anni, 15 anni di lavoro da telefonista, mantenere i miei diritti è stato un vero calvario. E c'è questo aspetto, nei confronti di questa parte dell'Italia bisogna essere non solo riconoscenti ma bisogna essere solidali, lo dico con il cuore. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del problema dell'invalidità del nostro paese, del problema degli accertamenti dei falsi invalidi, del regime di controlli che sono stati posti in essere, delle nuove norme che partono dal 1 gennaio con un maggior coinvolgimento dell'INPS, non solo come ufficiale erogatore ma anche come titolare della pratica e quindi dell'esame. Abbiamo iniziato anche a occuparci poi dei problemi che sono invece denegati diritti rispetto a chi questo problema ce l'ha sul serio. Prima di liquidare la parte, diciamo così, controlli e così via, ancora una domanda però al Presidente Mastrapasqua, poi vi presento gli ospiti nuovi che si sono aggiunti. Nei controlli che avete fatto, la percentuale di revoca, al di là poi delle opposizioni e delle impugnative, delle revoca dei trattamenti che erano in corso, in che percentuale sta da una parte? E dall'altra c'è anche lì una diversa distribuzione geografica come nei trattamenti in corso, cioè al sud più del doppio che al nord? Dunque, noi abbiamo una media nazionale di circa il 13%, però è giusto che si sappia che l'80% delle pensioni di invalidità si concentrano in 5 regioni, che sono insomma abbastanza... Cioè il 13% di quelle che a vostro giudizio sono false? No, già sono state revocate, non al giorno sul giudizio, insomma la commissione si è riunita, ha visitato e non c'era più l'invalidità, ecco, non c'era più la patologia invalidante. Però a me piace dire una cosa, dottor Giannino, quando io ad agosto a luglio ho proposto la norma, devo dire che mi hanno detto lei è un matto perché non l'ha mai fatto nessuno, cioè sì. L'ultima norma risale a tantissimi anni fa. Dato che poi i matti sono quelli come abbiamo fatto che fanno andare gli orari, esatto, i treni, c'è qualcuno che poi deve essere matto in questo paese per fare qualcosa di migliore, e allora ci siamo riusciti. Nella norma c'è anche per esempio la revisione dei criteri di invalidità. Lei, dobbiamo sapere tutti che noi stiamo facendo e tutti quanti applicano dei criteri antiquati che sono di 1970, esatto. Immaginate come è cambiato l'Italia dal 70 a oggi e come invece le tabelle invalidanti sono rimaste uguali. Una commissione si insedia la prossima settimana e comincerà a ragionare come è cambiato, perché se oggi uno è impiegato e ha un dolore alla spalla, non è l'agricoltore che non può più lavorare, quindi è cambiato un mondo, ci tentiamo, sono più di 30 anni che non si fanno, noi ce la mettiamo tutta per rispondere al radioascoltatore che le ha mandato quel messaggio. Sì. Io sono addolorato, ma lo dico sinceramente, del disturbo che diamo ai veri invalidi, ma sono addolorato a tal punto che attraverso quest'opera siamo riusciti a sradicare qualcosa che era un Moloch. Mi hanno detto ci rimarrai sotto, invece ecco, stiamo governando questa cosa. Tutto questo è a vantaggio dei veri invalidi. Io voglio dare, desidero, pretendo che il vero invalido abbia la pensione di invalidità in 120 giorni e che non debba più essere chiamata a visita. Certamente. È assurdo che io debba fare queste cose straordinarie, è umiliante per un paese doverle fare, significa che c'è qualcosa che non funziona nella catena dei bisogni, perché qui stiamo parlando delle persone che hanno il bisogno, ecco, che hanno un problema e non hanno l'autonomia di poter lavorare, quindi i numeri grandi, i famosi 13%, è vero, sono tutti concentrati in alcune parti del paese dove l'invalidità era un ammortizzatore sociale, diciamocelo perché bisogna essere sinceri, no? È servito da ammortizzatore. Oggi lo Stato non se lo può più permettere perché sta negando a chi ha diritto e sta dando forse a chi non ce l'ha. Tra i pochi a riconoscere esplicitamente, ricordo l'ex onorevole, oggi europarlamentare Mastella, che quando furono approvate le norme di cui stiamo parlando oggi, cioè controllo al tappeto e l'INPS che diventa titolare della pratica e quindi accerta i requisiti, disse: questo è un attacco al sud, perché nel sud la pensione di invalidità è appunto un'integrazione al reddito, non più che rispondere ai particolari requisiti delle sicure e ragionevoli e verificabili percentuali di invalidità. Ora, gli ospiti che si sono aggiunti chi sono? Sono Luigina De Santis, componente di presidenza dell'Inca CGL. Buongiorno Luigina De Santis. Buongiorno a tutti. alla quale chiederemo di affrontare anche un altro aspetto della questione invalidità legata agli infortuni sul lavoro, legata all'INAIL. L'INAIL non tutti sanno, in questo paese distratto alle cifre, che per esempio è un ente che insomma accumula begli attivi di anno in anno, quest'anno ne fa almeno 1,5 miliardi, sul conto di tesoreria dell'INAIL ci sono 12, 13, 14, quasi 15 alla fine di quest'anno saranno bei miliardi di euro, e c'è un problema, dicono i sindacati e dice soprattutto la CGIL, che su questo si batte molto, che riguarda quelli che invece sono vittime davvero degli infortuni sul lavoro, rispetto ai quali si sostiene, diciamo, il favore nel riconoscere il giusto trattamento e nei tempi ragionevoli è un po' una inversione rispetto all'eccesso invece di occhi chiusi che fino a oggi ha consentito i trattamenti di invalidità come ammortizzatori sociali nel sud. E poi abbiamo insieme a noi Pietrangelo Ricci, che è ordinario di medicina legale, segretario del SIMLA, cioè la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni. Buongiorno, dottor Ricci. Buongiorno. Allora, sentiamo intanto due ascoltatori anche. Innanzitutto Paolo da Roma. Prego Paolo. Buongiorno, io so che storicamente gli emolumenti legati all'invalidità hanno avuto un grande volano, quello cioè dell'essere riconosciuti ai patronati, alle associazioni, diciamo, che assistevano l'invalido ad ottenere l'emolumento, la pensione, l'indennità, questi enti poi incassavano una percentuale sull'emolumento stesso. Questo era naturalmente un gigantesco volano a forzare, quantomeno, non a forse a creare il falso invalido ex novo, però insomma a forzare certe letture, certe interpretazioni. Mi chiedo se sia ancora così, diciamo, se queste nuove norme intervengano in questo senso, perché credo che quello sia davvero stato un volano reale enorme, insomma. Grazie, lo chiederemo anche alla nostra amica della CGIL che è qui. Poi Anna da Venezia, prego Anna. Senta, io sono un'invalida civile da tanti anni. L'anno scorso sono stata invitata presso l'INPS di San Donà a fare la visita. Giustamente sono andata, ho portato la documentazione richiesta, dopodiché i signori che mi hanno visitata mi hanno mandato in un altro centro e hanno preso loro l'appuntamento, però era sbagliato il giorno, quindi mio figlio si è preso la mattinata libera, mi ha portato a questo centro e siamo arrivati lì, non si poteva fare, quindi nuovo appuntamento, sono ritornata, mi ha visitato un medico legale, giustamente, per l'amor di Dio, però abbiamo perso tre mattinate, insomma. Allora io dico, qua nel Veneziano, nella zona di San Donà, per esempio c'è un ospedale con un reparto di oculistica, perché invece di farci fare tutta questa trafila non ci mandate lì? Anche perché, guardi, io le dico, io tanti anni che sono invalida, non vedo, però l'umiliazione che si sente, che si prova, è da piangere, perché uno quando porta la documentazione dell'ASL, dell'INS, della prefettura, di tutte quelle cose, non è un falso invalido. Anna, ma lei ha ragione, io per questo ho pregato davvero che tra chi telefonasse di scegliere, lei non sta solo parlando a nome suo, io ci tengo a dirle che io tutte le volte che tratto temi che riguardano i diritti dei cittadini, e sembra che noi pensiamo sempre che sia tutto falso nel nostro paese, c'è anche lo scrupolo di chi fa informazione, quindi io in particolare mi scuso con lei se a lei e a tutti gli italiani che adesso sono in ascolto, che hanno un problema vero e che hanno faticato e che magari non hanno avuto il giusto riconoscimento, sembra quasi che ce l'abbiamo con loro in uno stato che con loro non è molto generoso, e non è molto generoso anche perché poi appunto utilizza criteri sicuri e rapidi di accertamento dei requisiti a chi ha veri problemi, e certo non sarà con le poche centinaia di euro al mese che li risolve, e purtroppo li utilizza per altro. E io infatti, Anna, scelgo lei perché insieme al presidente dell'INPS e fino all'ultimo di noi, noi vi siamo grati, e purtroppo pagate anche voi il prezzo di queste semplificazioni che poi però bisogna porre in essere, perché bisogna ristabilizzarli questi diavoli di conti, e soprattutto non bisogna usare i trattamenti che andrebbero rivolti a voi per altri. Allora, dopo queste due poche telefonate, passiamo con questi altri ospiti che abbiamo. E la prima domanda che farei a Luigina De Santis della CGIL è doppia. Primo, ci dica sinceramente, insomma, il ruolo che i sindacati hanno avuto anche loro nella macchina delle false certificazioni, visto che anche l'ascoltatore lo chiede, però ci dica anche un pochino su come la pensate sui riconoscimenti dei tempi e delle reali percentuali di invalidità su chi invece è vittima degli incidenti, troppi sul lavoro nel nostro paese. Prego De Santis. Dunque, voglio dire di aver sentito molte cose interessanti finora, ma altre anche veramente incomplete. Sicuramente voglio utilizzare la parola che ha usato la signora Anna da Venezia: è umiliante per i falsi invalidi sentirsi sempre al centro di una caccia che ogni anno si ripete. I falsi invalidi ci sono, l'ha detto già il presidente Mastrapasqua, ci sono le revoche che diciamo sono il 13%, però in molti casi si tratta anche del superamento di una situazione invalidante temporanea. E queste sono tutte persone che hanno avuto il riconoscimento di invalidità da una commissione medica, quindi forse bisognerebbe anche indagare. Ah, no, ma noi dei medici abbiamo parlato, se l'ha sentito. Bisognerebbe anche indagare la responsabilità di professionisti, certo, che attestano, perché la persona fa la domanda, la persona non è che autocertifica, ecco, la persona fa la domanda sa che nel settore pubblico siamo vicini all'autocertificazione, perché non in questo caso, bisogna assolutamente passare al vaglio della commissione medica, e tanta è l'importanza di questa commissione medica che giustamente secondo noi l'INPS ha voluto introdurre un suo medico sin dall'inizio del percorso. La seconda cosa gravissima che si è permesso di dire l'ascoltatore di Roma, mi sembra, sì, che il patronato avrebbe una percentuale, veramente una cosa da denuncia, io lo dico subito. Ma perché molta gente lo pensa. Si riferisce alle associazioni, ma anche io ne conosco personalmente di serissime. Se c'è qualche patronato che va allora segnalato al Ministero del Lavoro, che è organo vigilante sulle nostre attività, e quindi deve andare in galera. De Santis, se c'è un patronato c'è... che prende una percentuale sulla domanda di invalidità civile, certamente, sulle indennità riscosse, deve andare De Santis, in la devo interrompere. Ecco, siamo tornati in studio, avevamo interrotto Luigina De Santis, che ci aveva risposto sul tema del presunto coinvolgimento sindacale. Rimane la questione invece incidenti veri sul lavoro, tempi e modalità di riconoscimento dei diritti. Certo. Volevo dire, a proposito della presenza di invalidi nella società italiana, che la percentuale media nazionale è inferiore a quella europea. Quindi non è che noi in Italia abbiamo un'esplosione di invalidi. No, su non questo è così. No, la però prima cosa è se ne abbiamo in alcune regioni tre volte che altrove. Certo, faccio un esempio: noi abbiamo tentato ieri di beccare le ASL che hanno più dell'8% di invalidi, Nuoro, eccetera, eccetera. Naturalmente nessuno dell'ASL ci ha voluto rispondere. Quando si hanno percentuali tre volte rispetto ad altre regioni, ci sono delle domande, certo, no? Certo, certamente. Lì ha ragione il dottor Mastrapasqua quando sottolinea che in alcune regioni, diciamo, inesistenti da un punto di vista dello sviluppo economico o deindustrializzate, può aver assolto una funzione di sostituzione del reddito, però non dimentichiamo che ormai i controlli sulle invalidità civili vanno avanti imperterriti da anni e anni e anni. Oggi la situazione è diversa, non è questo il primo controllo. Il dottor Mastrapasqua sa bene che l'INPS da anni effettua il controllo, e in precedenza altri organi preposti lo facevano. Ora, lei chiedeva perché c'è questa straordinaria crescita delle indennità. Dobbiamo sottolineare che crescono molto le indennità di accompagno, quelle che, come lei sottolineava, sono legate al reddito e sono collegate all'aumento dell'età media di vita. Se noi guardassimo i dati insieme, vedremmo che c'è uno straordinario incremento delle indennità di accompagno in Italia dagli 80 agli 89 anni. Non dimentichiamo questo, che con l'invecchiamento. Questa è sicuramente una componente su cui fa bene. I dati ufficiali, certo, diciamo, i dati degli studiosi, ma i dati Istat, i dati del casellario, dell'INPS. No, ma è ovvio che con l'aumento della vita media la percentuale di invalidità collegata alla minore mobilità eccetera è destinata a crescere per questo aspetto. Ce lo dice l'Europa in tantissimi studi, non è una novità, stiamo andando verso una realtà che era descritta da anni, no? Anche l'incremento della spesa per il sostegno alla popolazione molto anziana va avanti. Mi potrà dire, e lei lo ha osservato, che l'indennità l'indennità di accompagno è slegata dal reddito, non è collegata ai limiti, sì, di reddito come tutte le altre indennità di invalidità civile, che prevedono per forza un limite di reddito anche molto basso, pur essendo esse stesse basse, perché parliamo di 255-276 euro, veramente modeste. Quindi nel 2000 è uscita una legge, la 328, che prevedeva la possibilità di riformare tutte queste indennità, perché ne esistono di tanti tipi, sì, no? Sì, l'indennità, sì, di invalidità civile, l'indennità di accompagno, l'indennità di frequenza per i ragazzi che vanno a scuola, l'indennità per i ciechi civili, l'indennità... Quindi si sarebbe potuto fare qualcosa che non si è fatto, ed è vero che la normativa è di una assoluta complessità. Anche qui io concordo quando il dottor Mastrapasqua sottolinea che l'INPS faceva un pezzetto. Nella maggior parte delle regioni italiane sono tre i soggetti che intervengono quando io presento una domanda di invalidità civile finora, poi dal 1 gennaio cambia ed è un progetto che noi appoggiamo. Che cosa accade oggi, 3 dicembre? Se io devo presentare una domanda, per esempio in Emilia-Romagna, devo presentare la domanda alla ASL, che fa l'accertamento sanitario, poi il comune fa l'accertamento reddituale e poi la prestazione viene pagata dall'INPS. Dunque ben tre soggetti. La stessa cosa se io per esempio facessi la domanda in Puglia. No, ma noi abbiamo identificato le ASL e i medici, tanto per essere chiari, come il soggetto abbastanza connivente. I comuni hanno avuto anche la loro responsabilità, però questo è perché altrimenti non si spiegherebbe la percentuale di distribuzione, diciamo così, dei trattamenti inversamente proporzionale al reddito disponibile, e non certo per una maggiore incidentalità di patologie o di incidenti sul lavoro o di questo genere. O no, per esempio, cosa ne pensa il professor Ricci su questo? Innanzitutto buongiorno. Sicuramente le differenze che ci sono tra aree geografiche nel nostro paese sono legate sicuramente a condizioni locali. Penso all'invecchiamento, come è stato detto da chi mi ha preceduto, penso anche alla tipologia di patologie che in alcune regioni possono essere endemiche. Bisognerebbe conoscere i dati analitici anche relativamente al tipo di patologia. Però ci tengo anche a dire un altro elemento, che è un elemento importante, che è un elemento acclarato, e che cioè è dimostrato che nell'ambito dell'invalidità civile, tenuto conto del sistema di valutazione che noi abbiamo, è possibile che ci possano essere delle differenze, dei dispareri, dei pareri differenti. Basti pensare a quello che succede in contenzioso, dove magari un consulente chiamato dal giudice stabilisce che questa persona che ha fatto ricorso, che ha impugnato la decisione sfavorevole della ASL, adesso dell'INPS, è invalida, poi magari viene fatta in appello un'altra consulenza da un altro medico e stabilisce che invece ha diritto. Voglio dire, dobbiamo stare attenti quando siamo in termine falso. Per carità, no, ma io su questo ho riconosciuto che nel contenzioso, anzi, l'INPS andava quasi sempre, non dico quasi sempre, ma insomma la percentuale era di preoccupanti decisioni avverse all'opposizione che faceva l'INPS. Dico preoccupanti perché questo nel fenomeno dell'impiego pubblico ha avuto degli aspetti poi di redistribuzione territoriale collegata a questo molto preoccupanti. E volevo chiedere al Presidente Antonio Mastrapasqua di fare un punto finale, per così dire, anche se dal suo punto di vista possiamo aspettarci che la riunificazione, il testo unico sull'invalidità sia davvero a portata di mano, ecco, anche dal punto di vista della complessità legislativa del cittadino ci deve avere a che fare. Prego Presidente. Ma guardi, io spero di sì. Noi abbiamo squarciato il velo, no? Posso dirlo anche dell'ipocrisia, per cui tutti parlavano di questo fenomeno, i telegiornali aprivano con la podista, no? Invalida, ma poi tutti quanti continuavano a fare il vecchio manuale. Noi l'abbiamo fatto con coraggio, forse anche con temerarietà, perché il problema poi non è tanto il mio che sto al centro, ma il mio medico che dovrà operare in zone, diciamo, calde del paese. L'abbiamo fatto con coraggio. Dal 1 gennaio garantiremo l'applicazione senza rinvii. Io l'ho detto ai miei, io non firmerò nessun rinvio dal 1 gennaio E ringrazio i patronati che ci assisteranno in questo, perché inviare una domanda in varietà in via telematica non sarà facile, stiamo facendo le convenzioni con i patronati e con chiunque altro ci potrà aiutare per far sì che dobbiamo aiutare i cittadini. Lo ripeto, mi fa piacere e ringrazio il dottor Giannino che mi ospita, è un dovere, e mi scuso con la signora Anna che ha dovuto fare due appuntamenti, noi lo stiamo facendo per i veri invalidi, non voglio parlare, non ho mai avuto parlare dei falsi invalidi, non mi interessa, a me non interessa il 10%, starei tutti i giorni in prima pagina, non mi avete mai visto perché non ho mai dato un dato sui falsi invalidi, non li darò mai, a me interessano i veri invalidi, interessa dare in tempi certi, in regole uguali in tutta Italia, con una trasparenza del quale il maneggio di denaro pubblico ha bisogno, quello che i bisogni delle persone, i veri invalidi, devono avere dallo Stato. Ed è esattamente questo il motivo per cui anche oggi ce ne siamo occupati. Io ringrazio il presidente dell'INPS della sua disponibilità, ringrazio la De Santis della presidenza dell'Inca CGL, il professor Ricci, tutti voi ascoltatori, e ringrazio regia Paolo Corleone, Alessandro Marcotunni in redazione. Continueremo anche nei prossimi giorni, finché mi sarà possibile, sarò qui pro tempore, a occuparci di temi un po' diversi e un po' concreti della società italiana, di chi ha diritti, diritti veri, diritti denegati e diritti a volte anche usurpati. Quindi a domani, la linea Giornale Radio.